eravamo il buono, il brutto e il cattivo. Adesso siamo solo brutti, sporchi e cattivi. Bella old dirty. Ow! E c'è la scimmia, eh. This is remix. Yo, yo, yo, yo, yo. Ok. Scimmia, scimmia, scimmia. Se fumo pacco, fili fuori di qua. Daccene un sacco, ti rapiamo papà. Ho la scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Un tiro, due tiri, tre tiri, quattro. Un altro tiro ancora e sicuro vado in collasso. Cinque tiri, sei tiri, sette tiri, otto. Un altro tiro ancora e mo scoppio. Ah, chi mi salva? Talmente dipendente sempre in aria. Tiro lo spliff come liane, puoi chiamarmi Tarzan. Ho sulla spalla questa scimmia che vive troppo larga. Come neppure Bassi con i suoi gorilla. Sono il rapper più biblico del re. Sulla schiena quale scimmia? Io c'ho l'arca di Noè. Se vuoi puoi confondermi con Graf per lo stilo. Io non penso positivo, penso al cielo. Metro star perché? Perché le faccio lungo un metro e con un tiro vado a star bene come un re. Con la mia ganja ti fai film troppo nitidi. Talmente tanta resina che c'hai cristalli liquidi. Beh, chiedi a Fada Matt com'è. Io da piccolo giocavo nell'erba. Ora è l'erba che gioca con me. Ricordi la mia faccia in uno zoo? Sono così scimmiato che mi chiamo King Cola. Scimmi, scimmia, scimmia, scimmia. Se fumo pacco fili fuori di qua. Daccene un sacco, ti rapiamo papà. Ho la scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Sulla mia spalla c'è una banda che balla. La scimmia Jane, Tarzan, anche sua mamma. Sembro il signore degli anelli quando flippo. Il tesoro, gli anelli del signore io li scippo. Ed è una botta da non credere. La servo potente dai campi svizzeri. Chiamami Roger Federer. Parli di rap, c'è chi ha merce, che peste, chi solo fuffa. Il mio CD è scanchi, il tuo muffa. Chiedi alla scimmia quanti pirla. Non hanno le palle perché hanno venduto anche i gioielli di famiglia. E scusa ma non ti capisco. La sniffi sul CD, poi dici che ti sei fatto il disco. Dai, non fare il duro, non superi il muro. Poi fumo super, prendi i pacchi super il culo. La tua ragazza con la scimmia naspa. Prima un'aspirante attrice, adesso aspira e basta. E suona finché la barca va. Fa la tipa seria, poi la sera tira e fa la vacca al bar. E ti chiedi perché a te non la dà. Perché dopo Metro Star sei più di là che di qua. Baby, non scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Se fumo pacco, fili fuori di qua. Daccene un sacco, ti rapiamo papà. Ho la scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Ho la scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Se fumo pacco, fili fuori di qua. Daccene un sacco, ti rapiamo papà. Ho la scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Scimmia, scimmia, scimmia, scimmia. Scimmia, scimmia, scimmia, scimmia.